Ad alta voce. Le Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro dodicesimo, versi 429-623. Libro tredicesimo, versi 1-122. Il vecchissimo Nestore, re di Pilo, in una mora della battaglia sotto le mura di Troia, sta diffusamente raccontando ai generali greci le proprie imprese nel corso della famosa rissa fra i Lapiti e i Cantauri alla festa di nozze di Pirito e Ippodamia. Ho ancora negli occhi Feocome, il quale si proteggeva, ricordo, tanto la parte da uomo quanto la parte da cavallo, annodandosi addosso le pelli di 6 leoni. Costui, scagliato un tronco che una coppia di buoi non avrebbe smosso, fracassa la fronte a Tectafo, figlio di Oleno. Io però, vedendo la bestia disporsi a spogliare il caduto, ne sa qualcosa tuo padre, gli caccio negli intestini tutta la spada, anche Ctonio infilzo con le mie mani, anche Teleboante, il primo armato d'un ramo forcuto, l'altro di un'asta, e con l'asta mi ha pure ferito, lasciandomi il segno. La vecchia cicatrice ancora si vede. Allora doveva mandarmi alla conquista di Troia. Allora potevo, non dico superare Ettore in armi, però fronteggiarlo, sì. Ma a quei tempi non era nato Ettore, o era un bambino. E il mio momento è passato. Vuoi ancora che ti racconti la vittoria di Perifante su Pireto Biforme o Ampice che sfonda la faccia di Echeclo al galoppo con un bastone di corniolo spuntato o Macareo il Tessalo, il quale sbattendogli sul petto una spranga abbatté Erigdupo? Ah sì, mi ricordo e come lo spiedo scagliato da Nesso piantarsi a fondo nell'inguine di Cimelo, e non pensare che Mopso di Ampice si limitasse a predire il futuro. È di Mopso la lancia che fa stramazzare Ulite il centauro, che tenta invano di dire qualcosa, la lingua inchiodata al mento, il mento inchiodato alla gola. Dal canto suo Ceneo cinque ne aveva accoppati: Antimaco, Stifelo, Bromo, Elimo e Piracte, armato di accetta. Non ricordo come, ricordo soltanto il numero e i nomi. Qui arriva di volo l'Atreo, con indosso le armi di Aleso, che lui stesso aveva appena ammazzato, un vero colosso di centauro, non più giovane ma non ancora vecchio, con l'energia di un ragazzo, le tempie però brizzolate. Vistoso lo scudo, vistose la spada e la picca macedone, controllando di sbieco lo scontro dei reparti, rimena le armi fracassone e galoppa in tondo su un circuito che è sempre lo stesso, sventagliando nel vuoto dell'aria questo spocchioso indirizzo. E dovrei sopportare anche te, Ceni. Per me sarai sempre una donna. Scusami, Ceni. Possibile mai non ricordi com'eri quando sei nata? A che prezzo, in compenso di che, ti sono state assegnate quelle finte fattezze di maschio? Pensa com'eri al principio e che ti è capitato. Ma dai, torna al fuso, torna al cestino con la lana e lavora di pollice. La guerra lasciala ai maschi. Blaterava così quando Ceneo gli scaglia un'asta che in corsa gli si ficca nel fianco scoperto, dove l'uomo si salda al cavallo. Dal dolore quello impazzisce e con la picca prende in piena faccia quell'altro. Hai presente come la grandine rimbalza sui tetti o rimbalza un sassolino nel cavo d'un tamburo? La picca così. Allora gli salta addosso e vuole affondargli la spada nel corpo duro. Non trova accesso al corpo la spada. Non mi scappi lo stesso, urla. Se la punta non vuole entrare, ti sgozzerò col taglio della lama. E girata la spada, rimena un fendente tale che lo avrebbe tagliato a metà. La botta fa un gemito, come il corpo fosse di marmo, e contro quel callo di cute il metallo si sbriciola. Ceneo, prestatosi illeso fin troppo ai colpi di quel centauro sbalordito, «e adesso vediamo», gli grida, «che effetto ti fa la mia spada», e gliela caccia fino all'elsa in corpo e lì dentro la gira e la rigira alla cieca, nelle budella, moltiplicando lo squarcio con una catena di squarci. Figuriamoci con che urla gli si avventano addosso i centauri, con che odio gli scagliano picche e lo assaltano all'arma bianca. Ma le picche rimbalzano e Ceneo, figlio di Elato, i colpi non lo scalfiscono affatto e non perde una goccia di sangue. Il prodigio li sbalordisce. «Che vergogna, tremenda vergogna!» grida Monico. «Mille che siamo, ci lasciamo, ahimè, sopraffare da un uomo. Che uomo sì e no! Sì che è uomo! Siamo noi altri vigliacchi a essere quello che era lui. A che servono questi corpacci enormi? A che serve il raddoppio di forze? Perché la natura avrebbe abbinato in noi due creature fortissime? Non sembriamo davvero figli d'una dea, non sembriamo davvero figli di Sione, uno che poteva aspirare a portarsi a letto Giunone, sconfitti noi da un uomo, uomo a metà. Rovesciamogli addosso macigni, tronchi d'albero, intere montagne, soffochiamogli di foreste quell'ostinatissima vita. Non si buca? Togliamogli il fiato. Il peso lo schiaccerà. Detto, si trova fra i piedi un tronco strappato da terra dalla furia del vento del sud e lo scaraventa addosso al valoroso nemico. L'esempio funziona. In un attimo l'otri è pelato di alberi, non c'è più ombra sul pelio. Si dibatte Ceneo, sepolto dall'immane catasta, e tenta di reggere con la roccia delle spalle quel mucchio di piante, ma quando al di sopra degli occhi e della bocca gli monta il carico e lui non trova più di che respirare, si smarrisce, però disperatamente le tenta tutte per tirarsi su fino all'aria e far rotolare lontano i tronchi e li smuove perfino come un terremoto che sgrulli le cime del Monte Ida. Che se guardi lo vedi laggiù. Com'è finita? Chissà. C'è chi sostiene che tutto quel peso lo abbia schiacciato con tutto il corpo nel Tartaro, ma Mopso contesta e sostiene di aver visto sbucare dal cumulo e volarsene via nell'azzurro un uccello con ali rossicce, che anch'io non avevo mai visto e che non ho visto più. E osservandolo volteggiare sui suoi camerati, lentissimo, e spargere l'aria di strida spaventose, Mopso sostiene d'essersi indirizzato a lui con gli occhi e col cuore. «Salute a te, gloria del popolo Lapita, un tempo persona grandissima, oggi Ceneo, uccello senza l'uguale». L'autorità di Mopso fa fede, il dolore scatena la nostra collera, in tanti accanirsi contro uno solo, e perseveriamo a sfogare il dolore col ferro, finché la fuga e la notte non ci sottraggono i pochi superstiti. In questi termini il Veglio di Pilo conclude il racconto della battaglia fra Lapiti e Centauri, ma non va giù Atle Polemo che abbia taciuto di suo padre e non senza rancore. «Mi stupisce, signore, di non avervi sentito lodare le gesta di Ercole», dice, «e dire che lui raccontava ai figli, ma sì, della nuvola, di averli domati lui». Di rimando Nestore triste. perché mi costringi a tornare su una brutta storia, a riaprire ferite chiuse da tempo, a confessarti che, offeso da tuo padre, lo ho tanto odiato. D'accordo, ha compiuto imprese incredibili, il mondo d'accordo trabocca delle sue gesta, vorrei poterlo negare, ma io non tesso le lodi di Deifobo, di Polidamante o di Ettore stesso, perché dovrei lodare un nemico? E non era un nemico tuo padre quando rase al suolo le mura di Messene e diroccò senza alcuna buona ragione Elide e Pilo, mettendomi a ferro e fuoco la casa? Per non parlar di quanti altri ne ha ucciso, noi figli di Neleo, 12 che eravamo, giovinotti di belle speranze, 12 lui ne ha ammazzati, Ercole, escluso me solo, brutalmente. E se è comprensibile abbia ucciso gli altri, che dire, pazienza? Incredibile resta la morte di Periclimeno, dato che capostipite della genia di Neleo, Nettuno gli aveva concesso di assumere qualsiasi forma e di smetterla. Dopo aver cambiato una serie di forme senza successo, aveva preso l'aspetto dell'uccello che artiglia i fulmini, prediletto fra tutti gli uccelli dal re degli dèi. Poi, dotatosi di tutta la forza di un'aquila, con le ali, col becco adunco e con gli unghioni uncinati, gli aveva stracciato la faccia. Ma lui, il Tirinzio, gli punta l'arco fin troppo preciso e mentre quello si porta fra le nuvole e sta svolazzando lassù, lo coglie dove l'ala si innesta nel fianco, ferita non grave, ma i tendini, resecati dalla ferita, non gli rispondono più, gli negano il moto del volo. Piomba a terra, perché le ali debilitate non fanno presa nell'aria, e la freccia leggera, inficcata nell'ala, è spinta in dentro dalla pressione del corpo e risbuca, attraversato il polmone, a sinistra della gola. E ti sembra che io sia tenuto a tessere il panegirico di Ercole tuo, capitano della flotta di Rodi, mio caro? Vuol dire che per vendicare i fratelli mi limiterò a tacere delle sue gesta e resto lo stesso tuo amico. Questo Nestore dice, oratore amabile, e chiuso il racconto, tutti ritornano alle delizie del vino, poi si alzano e quanto avanza della notte destinano al sonno. Se non che il Dio che governa col tridente le acque, nel cuore di padre non si dà pace che Cicno suo figlio abbia assunto il corpo del povero uccello caro a Fetonte e, accecato dall'odio, detesta Achille più di quanto sarebbe corretto. La guerra si trascinava da più di 2 lustri che lui interpella Apollo, il dio dai lunghi capelli, così: «Ehi tu, prediletto fra tutti i figli di mio fratello, che inutilmente hai fondato con me le mura di Troia, non ti piange il cuore vedere la nostra rocca sul punto di crollare? Non ti impressiona che siano caduti a migliaia per difenderla? Non hai negli occhi, per non ricordarne che uno, il cadavere di Ettore strascinato intorno alle mura? Come mai questo eroe sanguinario, più lui della guerra stessa, Achille, eversore del nostro manufatto, non muore mai? Mi capiti sotto e gli faccio vedere io cosa posso con le mie 3 punte, ma visto che non mi è consentito prenderlo di petto, ammazzalo tu con una freccia inattesa». Apollo è d'accordo e, indulgendo a un suo proprio impulso e all'impulso dello zio, nascostosi dentro una nuvola, atterra nel campo dei troiani e, scorto nel vivo della carneficina il bel Paride che sventaglia frecce a casaccio contro ignoti, si dà a conoscere per il Dio che è e gli dice: «Perché sprechi frecce tirando su anonimi poveracci? Se i tuoi ti stanno un po' a cuore, vendica i tanti fratelli caduti, mira al Pelide». Detto, addita il nipote di Eaco che stermina Teucri con la spada, orienta su lui l'arco di Paride e scocca con mano letale una freccia che non sa sbagliare. Se il vecchio Priamo conobbe una gioia dopo la morte di Ettore, la gioia fu quella. E tu, vincitore Achille di tutti, sei stato vinto da un pavido rapitore di adultere greche, che, se dovevi cadere per mano di femmina o quasi, avresti, lo so, preferito la scure di Pentesilea. Ecco sul rogo lui, il terrore dei Frigi, il vanto e presidio dei Greci, il nipote di Eaco, lui l'invincibile, cremato nel fuoco del dio che gli aveva foggiato le armi. Non è che cenere ormai, e del grande Achille non resta più del minimo che non arriva a riempire una piccola urna. Vive però la sua gloria, vive e trabocca dal mondo. È questa la sua misura. Su tutta la terra soltanto il Pelide è uguale a se stesso ed elude il vuoto del Tartaro. Il suo stesso scudo, per rendere l'idea di chi era, scatena una guerra. Per quelle armi si mette mano alle armi. Non le pretendono né il Tidide, né Aiace d'Oileo, non il più giovane Atride, non il più anziano e famoso, né altri. Soltanto il figlio di Telamone ed il figlio di Laerte hanno il coraggio di pensare di meritarsele. Agamennone, stirpe di Tantalo, non si accolla l'onere e i rischi del giudizio, convoca al centro del campo i suoi generali tutti in seduta ed a tutti delega la decisione. Siedono i generali con la truppa in piedi a corona e, indirizzandosi a loro, s'alza lui dal settemplice scudo, Aiace, impaziente di rabbia, fissando torvo la spiaggia del Sigeo, e la flotta a secco sulla spiaggia tende le braccia e urla: «Giove santissimo! Come mai che proprio davanti a queste navi io mi vedo paragonato a un Ulisse che ha avuto la faccia di esimersi dalle fiamme che Ettore il Grande appiccava e ch'io fronteggiai ricacciandole via dalle navi? Certo si rischia di meno a combattere a chiacchiere che con la spada in pugno. Purtroppo io son refrattario ai discorsi, all'azione lui. Tanto valgo sul campo io di battaglia nell'arte spietata di Marte quanto vale lui quando parla. Io non penso che metta conto ricordarvi le gesta di Aiace. Camerati, le avete viste? Racconti Ulisse semmai le sue, che non han testimoni e per complice han solo la notte. Aspiro a un grandissimo premio, lo ammetto, ma il mio concorrente fin troppo lo svaluta. Come può un Aiace andar fiero di cosa, per grande che sia, quando a quella aspira pure un Ulisse, il quale già può lucrare questo suo tentativo? Diranno, una volta ch'io l'abbia sconfitto, che si è misurato con me. D'altra parte, ove mai si volesse discutere il mio valore, resterebbe ch'io lo subisso in nobiltà di sangue. Telamone mio padre con Ercole ha preso le mura di Troia e su un vascello varato a Iolco è sbarcato nel Caucaso. Suo padre era Eaco, che giudica le ombre mute laggiù dove Sisifo, figlio di Eolo, si accolla un enorme macigno, e il sommo Giove Eaco l'ha sempre riconosciuto per figlio. Ecco come Aiace è pronipote di Giove. Ma non conterei di sicuro sull'albero genealogico se non mi accomunasse Camerati al grandissimo Achille. Era un fratello. Pretendo quanto spetta un fratello. Perché tu, della razza subdola e ladra d'un Sisifo, vuoi imbucarti nella famiglia di Eaco, che non ti riguarda? A chi per primo, e senza esserci costretto, è corso alle armi, negate le armi, signori? Gli si preferisce l'ultimo arrivato, che per sottrarsi al proprio dovere è arrivato a fingersi pazzo, finché, più furbo di lui ma a proprio discapito, un Palamede non svelò quel suo trucco fellone, obbligandolo a prendere le armi che gli facevano schifo. Si prenderà le armi più belle, chi armi non ne voleva, e io, che mi sono esposto per primo al pericolo, io resterò senza un premio e senza un ricordo di mio cugino. Fosse stato pazzo davvero, o l'avessimo preso in parola, non ce lo saremmo portato qui, sotto le mura di Troia, questo istigatore di crimini. E tu, Filottete, per colpa nostra, tu non saresti confinato a Lemno, che ancora, a quel che si sa, rintanato nei boschi, piangendo, fai piangere i sassi, ed auguri al figlio di Laerte, imprecandogli contro quel che merita, che se ci sono gli dèi, non imprechi a vuoto. Per intanto un eroe che ha prestato giuramento di guerra con noi, eccellenza dei generali greci, erede ed esperto dell'arco di Ercole, sfatto dalla malattia e dalla fame, si veste, ahimè, delle piume di uccelli che abbatte per cibo, sprecando frecce dai fati destinate alla fine di Troia. Ma almeno è vivo e non è più compagno di Ulisse. Ah, se avrebbe preferito che lo abbandonassero, il povero Palamede. Camperebbe ancora o sarebbe morto, ma senza ignominia. Questo qui, che non gli ha mai perdonato lo smascheramento della finta pazzia, lo accusò di aver tradito la Grecia, comprovando l'accusa con l'oro che aveva nascosto lui stesso. Così, con l'esilio, se non con la morte, ha sottratto forze a noi greci. È così che combatte questo qui, perciò va temuto. Batta pure in Facondia il lealissimo Nestore, non riuscirà a convincermi mai che non fosse un delitto il mancato soccorso a Nestore, il quale ha tardato dal cavallo ferito e dal carico degli anni invocava l'aiuto di Ulisse, che lo mollò dov'era. E non sto inventando accuse, come sa bene il Tidide, che, avendo più volte chiamato per nome l'amico vigliacco, gli rinfacciava di essersi dato alla fuga. Ma con l'occhio dei giusti gli dèi ci guardano. Chi non prestava aiuto, ecco che mendica aiuto. No, chi abbandona va abbandonato. Si applichi a Ulisse, la legge di Ulisse. Chiama urlando i compagni. Arrivo e me lo vedo bianco che trema dalla paura, atterrito all'idea di morire. Lui sdraiato per terra, io lo copro con tutta la mole del mio scudo e gli salvo, gloria da poco, quell'anima abietta. Insisti in questa vertenza? D'accordo. Torniamo sul posto, davanti allo stesso nemico, tu ferito, tu come sempre codardo, e discuti. Al riparo del mio scudo continua a discutere. Non faccio in tempo a salvarlo, che questo, che per la ferita non stava in piedi, scappa come non fosse ferito. Arriva Ettore e porta con sé in battaglia gli dèi. Panico generale, Ulisse non tuo soltanto, ma anche dei coraggiosi, tanto è il terrore che incute. Euforico per la felice carneficina, Ettore io lo stendo, gettandogli addosso da lontano un enorme macigno. poi siccome lui pretendeva uno contro cui battersi, messo l'uno sceglie la sorte, esaudendo le vostre preghiere, camerati. Volete sapere com'è andato a finire il duello? Non mi ha battuto, non sono stato battuto da lui. Ed ecco che i teucri si avventano alle nostre navi col ferro, col fuoco e con Giove propizio. E il chiacchierone dov'è? Serve dire che con il mio petto ho salvato i 1000 vascelli, speranza del vostro ritorno, quelle armi per tutta la flotta. Che a dire la verità, più onore io faccio alle armi che loro a me. Condividiamo la gloria, ben più di quanto Aiace voglia le armi, son le armi che vogliono Aiace. Mi opponga il re d'Itaca un reso e un imbelle Dodone ammazzati, Eleno preso in trappola, il Palladio rubato, nulla compiuto alla luce del giorno, nulla senza Diomede vicino. Se doveste assegnare le armi per così squallide imprese, perché non dividerle e dare a Diomede la parte migliore? Ma poi che se ne fa l'itachese delle armi, che agisce sempre senza armi, nell'ombra, e il nemico lo mette nel sacco così? Lo stesso splendore dell'elmo che irradia una luce d'oro svelerebbe dove si appiatta, tradendo i suoi nascondigli. D'altra parte, il re di Dulichio dovesse mettersi in testa l'elmo di Achille, escludo sopporterebbe il peso, come troppo massiccia sarebbe per la sua destra imbelle l'asta di legno del Pelio, né lo scudo istoriato di immagini del cosmo si adatterebbe a quella sinistra vigliacca e ladra. Perché desideri un premio che ti mortifica? Commettesse l'esercito greco l'errore di gratificarti, rischieresti il nemico ti spogli più che tu fargli paura. E la fuga, l'unica cosa in cui primeggi, cialtrone, con quel carico addosso, non pensi ti verrebbe molto più lenta? Aggiungi che quel tuo scudo, così poco usato in battaglia, è intatto, laddove il mio, ammaccato com'è dalla raffica dei colpi, ha proprio bisogno d'essere sostituito. Ma poi che si parla a fare? Metteteci invece alla prova, gettate in mezzo ai nemici le armi del nostro eroe, mandateci a recuperarle e assegnatele a chi le riporta.